Investire informati. Tra l'altro c'è una ascoltatrice, Claudia, che vuole avere qualche notizia sui nuovi BTP annunciati. Non so se si riferisca all'asta di questa mattina, perché il Tesoro mette sul mercato oltre 6 miliardi di euro di BTP a 3-7 anni. Claudia, non abbiamo ancora l'esito, ma non appena ce l'avremo, fra qualche istante glielo comunicheremo senz'altro. Abbiamo in collegamento Enrico Vaccari. Enrico Vaccari, che è responsabile della clientela istituzionale di Consult Invest, l'abbiamo convocato proprio per provare a capire che cosa può succedere oggi e cosa può significare per noi risparmiatori nel direttivo della Banca Centrale Europea. Buongiorno, bentornato a Due di Denari. Buongiorno a voi. Tra l'altro Enrico Vaccari, come ti ricorderai, era un grandissimo fan di Mario Draghi e adesso sta lì. Chissà se segue meno volentieri del passato le riunioni della Banca Centrale Europea. Ma diciamo che l'ultimo banchiere centrale l'abbiamo salutato nel 2019, quando Mario Draghi se n'è andato. Adesso a capo delle due grandi banche centrali, la Fed e la BCE, abbiamo due avvocati, quindi è un'altra musica. Colgo una punta così di distacco, anche di distacco critico da parte sua, Vaccari, ma non è così forse? No, in realtà io sono un fan di Mario Draghi, perché Mario Draghi con i suoi fatti ha salvato l'economia europea e non solo, e anche in particolare l'Italia, quindi devo dire che dal punto di vista della sua azione nella Banca Centrale è stata impressionante, quindi la ricordo con molto favore. Però è cambiato il tempo, infatti anche tornando alla riunione di oggi sarà una riunione che sarà più una riunione delle parole più che dei fatti, perché dubito che oggi la Banca Centrale Europea possa fare qualcosa di concreto se non rimandare le azioni a fine dicembre. Sicuramente sui temi della crescita economica è atteso che venga detto qualcosa, magari una rimodulazione delle stime di calo del PIL che erano state appunto previsioni che erano già state fatte qualche settimana fa, quindi almeno da questo punto di vista forse qualcosa arriva da Christine Lagarde. Che cosa vi aspettate? Ma io mi aspetto che ci sia una conferenza stampa molto interessante, perché la Lagarde dovrà rispondere a tre quesiti molto forti. Il primo, quello che diceva lei, cioè le previsioni economiche. Si è evitato il peggio, è vero, l'azione della Banca Centrale ha evitato la catastrofe, però allo stesso tempo la crescita non è ancora incoraggiante. Quindi questo è il primo quesito. Il secondo quesito è la forza dell'euro. La forza dell'euro rischia di minare quelle che sono le azioni della Banca Centrale, perché mette a rischio, se dovesse salire ancora l'euro, le esportazioni, quindi una componente fondamentale per l'area dell'euro. Poi c'è un terzo quesito che è piovuto e quasi inaspettato, ed è il cambio radicale della politica monetaria da parte della Fed. Questo nuovo approccio all'inflazione costringerà la BCE a rispondere, perché è chiaro che le due inflazioni, quella americana e quella europea, devono essere simmetriche, ma quella europea è praticamente inesistente, quindi... Infatti ad agosto è scivolata in negativo. Magari Mauro, vale la pena ritornare a spiegare ai nostri ascoltatori cosa è successo a Jackson Hole, perché è così importante quello che ha detto il capo della Banca Centrale Americana, Jerome Powell, sull'inflazione. Sì, perché in quella occasione appunto Powell ha detto che questo obiettivo massimo di inflazione del 2%, che è anche poi quello della Banca Centrale Europea, che però è sempre stato considerato un po' come una soglia massima oltre la quale non si doveva andare, allora ha detto Powell: no, in realtà noi questo target lo vogliamo valutare come media. Quindi tollereremo, siamo disposti a tollerare dei periodi in cui l'inflazione vada anche oltre questo 2%. Senza intervenire sui tassi, per l'appunto, che verranno lasciati così bassi ancora a lungo, quindi il punto è questo. L'approccio è naturalmente per cercare di favorire il più possibile la ripresa, e quindi anche se l'inflazione si riscalda un pochino di più, Powell ha detto la lasciamo andare, insomma anche un po' sopra. Vaccari, quindi anche la BCE dovrà fare lo stesso, una dichiarazione più o meno di questo tipo? Sì, assolutamente sì, anche se qua la strada è molto più complicata, perché le due inflazioni sono molto diverse negli Stati Uniti rispetto all'Europa. Gli stimoli che la Fed ha fatto sono più importanti, il piano di azione della Fed è molto più ampio rispetto a quello della Banca Centrale, e quindi credo che la strada sia più in salita. Riportare l'inflazione, lasciare correre l'inflazione, è anche un altro obiettivo rispetto a quelli che giustamente ha detto lei, è quella di, siccome il debito favorito dall'azione delle banche centrali sta crescendo in maniera esponenziale, avere un'inflazione più alta riduce il peso del debito reale nell'economia, quindi è un trucchetto che serve alle banche centrali per mettere un freno a questo enorme debito che si sta creando a causa degli stimoli monetari e da parte dei governi. Insomma, aspettiamo allora le 13.45, come sempre l'annuncio sui tassi della BCE, che però non dovrebbero essere modificati, rimangono a zero sul livello attuale e quindi questo è il primo punto della giornata. Poi alle 14.30 conferenza stampa di Christine Lagarde, che peraltro parla stasera anche in un altro intervento pubblico alle 19. Quindi oggi è proprio la sua giornata, ma soprattutto speriamo che non faccia altre gaffe come quelle che ha già fatto qualche settimana fa, facendoci tramontare un mito. Sento che anche tu, Deborah, sei scettica. Non e siamo così. Qui per controllare gli spread, che non gli venga in mente, che non le venga in mente di ridirlo un'altra volta, perché sennò finiamo sulle montagne russe. No, ma dopo si era subito corretta, no, Vaccari? Aveva detto che era un po' una voce dal sen fuggita la sua. Sì, sicuramente, è chiaro che fece danni quella dichiarazione, però io credo che comunque Christine Lagarde sia molto abile nelle fasi di negoziazione, soprattutto negli stimoli che devono arrivare dagli stati, quindi sia il presidente giusto in questo momento per una banca centrale che ha bisogno non solo di liquidità, ma da stimoli da parte dei governi. Vabbè. I governi devono tornare a fare politiche di bilancio. Ha fatto pace con la Lagarde, Enrico Vaccari. Perché sì. Speriamo di non dover litigare tutti quanti noi europei con Christine Lagarde da oggi pomeriggio in avanti. Cara Deborah, qui il tempo fugge e l'uomo non se ne avvede, viene da dire citando il poeta. E allora io saluto e ringrazio Enrico Vaccari, responsabile clientela istituzionale di Consult Invest. Grazie per averci aiutato a decifrare la possibile strategia della BCE. Vaccari. Grazie a voi, buona giornata. E ricordando i numeri di telefono 800 24 0024 per intervenire in diretta, oppure 349 238 6666 se volete scriverci un messaggio SMS o con WhatsApp, passo ad annunciarvi che nella seconda parte, a ricordarvi che nella seconda parte parleremo dell'arbitro bancario e finanziario, che è appunto la misura di tutela per noi risparmiatori correntisti, insomma, che abbiamo a che fare con le banche e che possiamo avere in questo arbitro una forma appunto di protezione da eventuali soprusi o appunto atti non corretti. Tutto questo però avverrà dopo le borse. Siete un megafono per i poteri forti economici e politici. Due di denari. Buongiorno Deborah e Mauro, ma se l'arbitro bancario non si presenta, che cosa può fare un correntista per far valere le proprie ragioni? Nulla, perché le carte sono sempre in mano alla banca, decide lei. Grazie e buongiorno. Allora, ci sono dei collegi dove effettivamente operano degli esseri umani, però non è che esiste l'arbitro di calcio, questo è un istituto, un organismo, e per la verità noi possiamo presentare i nostri ricorsi, i nostri reclami a questo istituto per l'appunto, dopo averlo prima presentato però alla banca, e se la banca non risponde allora abbiamo il diritto di andare all'arbitro bancario. Questo è un po' quello che so, però magari non prende in considerazione o rigetta un ricorso nel caso in cui non ci siano proprio i requisiti per poterlo accettare. Ma chissà se ho studiato. Ma vediamo. Perché? Allora, innanzitutto io interpello chi ne sa sicuramente di più, perché proprio lunedì ha presentato sulle pagine del Sole 24 Ore un nutrito approfondimento sulle regole che andranno a cambiare da ottobre, ed è la collega Valentina Maglione. Buongiorno Valentina, grazie. Buongiorno. E poi abbiamo convocato per te, per rispondere alle tue domande, ma anche a quelle degli ascoltatori, cara Deborah, Margherita Cartechini del Dipartimento Tutela dei Clienti ed Educazione Finanziaria di Banca d'Italia. Buongiorno, dottoressa Cartechini. Buongiorno e grazie per l'invito. Allora, Deborah, da dove vuoi partire? Da questa sollecitazione della, dell'ascoltatrice? È corretta la ricostruzione, dottoressa Cartechini? Cioè, prima bisogna come dire, tentare di risolvere la questione in banca. Se poi non si riesce, c'è l'arbitro bancario finanziario. E soprattutto, esatto, è obbligato l'arbitro a rispondere, perché credo che l'ascoltatrice lamentasse proprio questo, che sia accettabile il ricorso o che sia non accettabile, deve sempre rispondere l'arbitro? Sì, benissimo, dottoressa. Darò qualche magari indicazione in più, però quanto da lei descritto già risponde alla procedura. Comunque, se una persona ha un problema con una banca che riguarda per esempio servizi bancari o finanziari, che possono essere conti correnti, depositi, mutui, finanziamenti, bancomat o carte di credito, per prima cosa deve fare un reclamo alla propria banca in cui contesta un determinato comportamento, e non è necessaria una forma specifica, basta farlo per iscritto. La banca ha 30 giorni di tempo, fra poco 60 giorni per rispondere, e se non risponde o risponde male rispetto alle attese del cliente, il cliente a questo punto può fare ricorso all'arbitro. Ma prima di fare ricorso, il cliente deve verificare che tutta la documentazione di supporto sia a sua disposizione. Perché questo? Perché alla base di un ricorso accolto c'è un ricorso ben documentato. E poi è semplice, basta avere un PC o uno smartphone connesso a internet, un'email e un numero di cellulare. Il ricorso va presentato poi tramite un portale, previa registrazione sull'area riservata del sito www.arbitrobancariofinanziario.it. E per capire poi come funziona il portale, il cliente ha a disposizione un video tutorial o una guida pratica. In ogni caso è importante una precisazione, che per presentare un ricorso non è necessaria l'assistenza di un professionista o di un legale, perché è davvero facile. E poi è un sistema poco oneroso, costa solo 20 euro e questi 20 euro vengono rimborsati in caso di accoglimento del ricorso. Poi l'unica cosa che deve fare il ricorrente è monitorare le comunicazioni che gli arriveranno dal portale, che potrebbe essere, faccio un esempio, un'integrazione documentale oppure una presa visione delle risposte date dagli intermediari. In ogni caso, poi, per rispondere alla domanda in maniera più precisa, l'arbitro risponde sempre, anche se il ricorso non è ammissibile perché per esempio riguarda una materia non di competenza dell'arbitro. Quindi il ricorrente riceverà comunque una risposta. Un feedback, come si dice, sì, dicono quelli bravi, Mauro. Guarda, chiamiamo in causa però Valentina Maglione, perché dal 1 di ottobre ci sono alcune particolarità, alcune cose che vengono modificate. Tra l'altro alcune danno più tempo, alcune modifiche che arrivano danno più tempo anche agli istituti di credito per rispondere, altre invece vanno nella direzione di ampliare le competenze dell'arbitro bancario finanziario. Valentina, puoi spiegarci brevemente, naturalmente, perché tu hai fatto un'intera pagina sul Sole 24 Ore di lunedì scorso, ma insomma, in sintesi, quali sono le maggiori novità alle quali dobbiamo stare attenti? Sì, certo, volentieri. Il tema è che appunto arriva questa riforma dell'arbitro bancario finanziario dopo 10 anni, insomma, di attività. È una riforma che è stata un po' sollecitata dalla necessità di adeguare le norme alla direttiva ADR per i consumatori, e poi insomma si sono un po' allargati e hanno insomma, è stata poi riformata, insomma, l'impianto proprio del funzionamento dell'arbitro. E come ricordavi giustamente tu, Mauro, intanto è stata ampliata la competenza per valore dell'arbitro. Attualmente si possono presentare ricorsi per chiedere somme fino a 100.000 euro. Questa soglia passa a 200.000 euro dal 1 ottobre, ed è una sollecitazione, una risposta a una sollecitazione che è arrivata dagli utenti, perché per ora all'arbitro si rivolgono sostanzialmente solo i privati consumatori, al 96% dei ricorsi in base ai dati del 2019 sono presentati da consumatori, mentre le PMI, le imprese, insomma, non lo utilizzano. Quindi insomma è un ampliamento di valore che potrebbe essere pensato anche per accogliere ricorsi di soggetti diversi. E sempre per quel che riguarda la competenza, diciamo che viene limitata invece la competenza temporale. Questo accadrà però dal 2022, quando si potranno presentare ricorsi che non vanno oltre il 6° anno precedente, che riguardano fatti che non vanno oltre il 6° anno precedente, mentre oggi si parte dal 2009 sostanzialmente. Questa è una modifica che è stata fatta forse anche un po' per rispondere al problema dell'ascoltatrice di prima, nel senso che oggi c'è un tema di durata della procedura di fronte all'arbitro, che nel 2018 si era assestata sui 266 giorni in media, nel 2019 è scesa un po' a 200 giorni. Però comunque è abbastanza. L'idea di limitare la competenza temporale è pensata proprio per far sì che l'arbitro non debba andare troppo indietro nel tempo e quindi insomma, perdere magari tempo, impiegare tempo per reperire dei documenti difficilmente reperibili, quindi insomma, per poter funzionare in maniera più agile, perché comunque è uno strumento stragiudiziale che deve dare una risposta rapida sostanzialmente. Questo appunto lato competenza, e poi c'è insomma l'altra modifica insomma, che ricordava anche la dottoressa, è relativa ai tempi di risposta della banca. Oggi insomma, di fronte al reclamo, che quindi è il primo passaggio prima di poter presentare la richiesta all'arbitro, la banca deve rispondere entro 30 giorni, dal 1 ottobre invece questo tempo sarà più lungo, si passerà 60 giorni, quindi magari si riesce già, insomma, si dà anche più tempo alla banca per magari riuscire a risolvere la controversia in una sede ancora precedente, senza neanche far intervenire l'arbitro, insomma. Allora, volevo ricordare i numeri per intervenire: 800 24 00 24 per le chiamate in diretta, oppure scriveteci o mandateci dei messaggi vocali su WhatsApp al 349 238 6666. Volevo ragionare un po' sui numeri, Mauro, perché questo è un anno importante per l'arbitro e noi ne abbiamo parlato qualche settimana fa, perché questo istituto celebra i suoi primi 10 anni di attività e in occasione di questo compleanno l'organismo ha fatto anche un bilancio di questi 10 anni appunto di vita e di attività, per l'appunto 146.000 le istanze dai clienti pervenute e 132.000 decisioni prese. Il tasso di adesione degli intermediari alle decisioni dei collegi è prossimo al 100%, vale a dire una volta che si decide in un modo o in un altro per un consumatore, la banca, come dire, rispetta la decisione del collegio, anche se non è una decisione vincolante, dottoressa Cartechini, anche questo è un aspetto importante, ma mediamente per la questione reputazionale in genere la banca adempie al suo dovere. Esattamente così. Il decimo anno di attività della ABS ci ha consentito di svolgere alcune riflessioni sulla funzionalità di questo strumento, proprio a 10 anni dal suo avvio. L'arbitro si è confermato come un organismo di risoluzione alternativa delle controversie, rapido, gratuito e rapido soprattutto nella risposta data ai ricorrenti rispetto ai tempi della giustizia ordinaria. Come diceva lei, in questi 10 anni l'arbitro ha ricevuto 146.000 istanze dai clienti e questo risultato è stato ottenuto grazie all'attività decisoria dei collegi dell'arbitro, che ricordo sono autonomi e indipendenti dalla Banca d'Italia, sono composti da soggetti altamente qualificati in materia di diritto bancario, finanziario, di tutela dei consumatori, ma anche in materie economiche. E nel decennio, come diceva lei, sono state adottate oltre 132.000 decisioni, adempiute nella quasi totalità dei casi, anche se lei come sottolineava che non sono vincolanti. È vero, c'è quel meccanismo della sanzione reputazionale, ma il fatto che siano adempiute sicuramente dà forza al ruolo e all'importanza dell'arbitro. L'altro dato che possiamo sicuramente dare è quello che soltanto con riferimento agli ultimi 4 anni ai ricorrenti sono stati riconosciuti più di 83 milioni di euro. Allora, poi faremo magari un punto sul caso tipico che arriva a questo tavolo. Mauro, che cosa ne dici? Però guarda, sai che cosa devi fare tu a quest'ora, giovedì? Certo, perché siamo al 44esimo minuto e 40 secondi. Io a questo punto, anche con un leggerissimo anticipo, lancerei il traffico. Due di denari. Sorry. di avere gettato nel panico più di un ascoltatore, più di un'ascoltatrice, ma c'è, essendo giovedì, il domandone. Abbiamo voluto essere puntuali con le informazioni sulla viabilità e adesso invece la domanda dalla quale potete rispondere solo telefonando a 800 24 00 24. Accettiamo risposte soltanto quelle che arrivano attraverso il nostro numero verde. La domanda di oggi, che sarà poi premiata da un nostro cadeau, un nostro regalo, è la seguente: qual è il livello dei tassi di interesse che viene praticato attualmente dalla Banca Centrale Europea? Deborah l'ha detto prima delle informazioni sulle borse. Siamo troppo buoni. No, vabbè, ma è abbastanza facile, dai. Allora, risolta questa cosa, Deborah, invece ci sono altre domande sì, che arrivano dagli ascoltatori che sono interessanti. Ad esempio, dottoressa Cartechini, ma anche Valentina Maglione, si fa spesso un po' di confusione che qual è la competenza dell'arbitro bancario finanziario, quale invece quella dell'arbitro Consob cosiddetto. Cioè, per chiedere un ascoltatore, per una finanziaria, per una lamentela nei confronti di una finanziaria, a chi mi devo rivolgere? Poi dipende che cosa intenda l'ascoltatore per finanziaria. Per esempio, può essere quella che eroga un prestito e quindi se appunto attiene a questo tema la domanda. Dottoressa Cartechini. Sì, allora provo a dare qualche risposta. Allora, la competenza dell'arbitro bancario finanziario riguarda i servizi bancari, i servizi finanziari e i servizi di pagamento. Faccio proprio qualche esemplificazione. Riguardano per esempio la materia dei conti correnti, dei mutui, dei finanziamenti, oppure le tematiche riguardanti l'utilizzo dei bancomat, delle carte di credito, ma non riguarda la materia delle obbligazioni e dei servizi di pagamento. Su questo ambito, i servizi di investimento, come di pagamento. Servizi di investimento, ecco. Mi scusi. Su questi ambiti, quindi obbligazioni e servizi di investimento, la competenza è dell'arbitro per le controversie finanziarie istituito presso la Consob. Con riguardo invece all'intermediario convenuto, possono essere convenuti, quindi chiamati, tra virgolette, di fronte ai collegi e di fronte all'arbitro, possono essere convenuti le banche oppure le finanziarie. Finanziarie però che devono essere vigilate, controllate dalla Banca d'Italia, oppure possono essere anche gli istituti di pagamento o anche Poste per l'attività di BancoPosta. Quindi Mauro, se incappiamo in un serpente corallo, in un intermediario che non è iscritto a nessun albo, a nessuna istituzione pubblica, ci teniamo la fregatura e non c'è arbitro che tenga che ci possa aiutare. Esatto. Anche perché diciamo tutta la procedura di confronto con l'arbitro bancario finanziario è comunque una procedura di risoluzione stragiudiziale. Valentina, stragiudiziale significa che sostanzialmente evito di andare in causa, evito di andare in tribunale, è così? Sì, l'obiettivo è proprio quello di non finire di fronte a un giudice sostanzialmente, quindi se la controversia si riesce a risolvere di fronte all'arbitro bancario finanziario, chiaramente c'è un tema di vantaggio in termini di tempo e di denaro, insomma, sia per tutti, insomma, sia per le parti in causa e sia per il sistema nel suo complesso. Peraltro, se poi la controversia non si risolve in sede stragiudiziale, chiaramente le porte della giustizia ordinaria sono aperte. Sono sempre aperte. Ovviamente. E sì. No, volevo anche dire che comunque di fronte per le cause in materia bancaria, volevo ricordare che comunque il passaggio stragiudiziale è comunque obbligatorio, cioè c'è una mediazione obbligatoria per le liti bancarie, quindi è comunque necessario, prima di rivolgersi al giudice, fare un passaggio dal mediatore o in alternativa dall'arbitro bancario finanziario. Tra l'altro noi, Mauro, abbiamo segnalato adesso l'arbitro bancario finanziario per il quale stiamo facendo la puntata. Abbiamo raccontato dell'esistenza e ne abbiamo parlato tante volte a Due di Denari dell'arbitro per le controversie finanziarie della Consob, quindi per tutta la materia degli investimenti, ma sta partendo anche l'arbitro che ci aiuterà a risolvere le nostre controversie con le assicurazioni, quindi l'IVAS è sulla rampa di lancio anche questo ulteriore organismo del quale parleremo al più presto. Io volevo segnalare agli ascoltatori e chiedere alla dottoressa Cartechini questo dato: il calo del ricorso degli italiani all'arbitro, che però in realtà può essere letto come una cosa anche favorevole, nel senso che sullo stesso sito dell'arbitro c'è anche la possibilità di consultare una banca dati, quindi di vedere se alcune cose sono state già risolte, analoghe magari a quello al se caso ci sono che dei è precedenti. Occorso. Esatto, non è che si faccia giurisprudenza perché è improprio definirla così in questo caso, però probabilmente questo è il motivo per cui c'è un minore ricorso. O sono troppo ottimista, dottoressa Cartechini? No, no, è giusto quello che ha detto. Nel 2019 sono diminuiti i ricorsi e in particolare erano diminuiti quelli in materia di estinzione anticipata contro finanziamenti di cessione del quinto dello stipendio. E la riduzione era dovuta ad una adesione da parte degli intermediari ex ante, quindi ex ante rispetto in anticipo rispetto alla presentazione del ricorso di fronte all'arbitro, in linea sia con gli orientamenti consolidati dell'arbitro sia con gli orientamenti di vigilanza. Quindi la flessione di ricorsi che avevamo osservato nel 2019 l'abbiamo valutata positivamente, perché l'obiettivo dell'arbitro è quello di favorire la risoluzione delle controversie anche senza dover ricorrere necessariamente all'attenzione dell'arbitro. C'è Nicola che su WhatsApp ci scrive: Mauro, ho una perizia econometrica sui miei conti aziendali del 2015 su abusi del tasso di soglie e commissioni massimo scoperto. Posso rivolgermi all'arbitro bancario per eventualmente fare chiarezza su questa cosa? Adesso poi ha fatto una sintesi molto stretta del messaggio. Nicola, qual è qua il passo, dottoressa Cartechini? Fare intanto una valutazione del danno economico subito prima di capire se l'arbitro è l'interlocutore giusto per risolvere questo problema? Allora, la prima cosa da fare, come diceva lei prima, è il reclamo, quindi cercare di capire con la banca che cosa è successo. Quindi se dal reclamo non emergono informazioni che soddisfano il cliente, è possibile ricorrere all'arbitro. Lui però è già alla fase della perizia. Quindi c'è un momento. Però, c'è già un momento, però la cosa fondamentale è comunque lamentarsi nei confronti della banca. Successivamente può procedere con una quantificazione eventuale del danno, e che sarà stato sicuramente già contestato alla banca nella fase del reclamo, per forza, e poi ricorrere all'arbitro. Allora, torno un attimo a ricordare qual è il sito di riferimento, anche perché l'abbiamo evocato prima, proprio per vedere se qualcuno vuole rintracciare anche un precedente, magari un caso analogo a quello che sta interessando l'ascoltatore in cerca di tutela dall'arbitro. Il sito è arbitrobancariofinanziario.it. Se volete guardare i precedenti, come li abbiamo chiamati, la voce è decisioni dei collegi all'interno di questo sito. Debora. Allora, abbiamo due minuti di tempo prima dei saluti. Io farei fare la risposta al domandone, così almeno oggi la facciamo con calma, perché se no di solito la facciamo a ridosso della sigla e non siamo mai tranquilli. Emanuele dalla provincia di Milano, Mauro le ribadisce la domanda di oggi. Allora, buongiorno Emanuele, noi vogliamo sapere oggi qual è il livello dei tassi di interesse che viene praticato attualmente dalla Banca Centrale Europea. Emanuele? È lo 0%. Complimenti Emanuele, lei è stato puntualissimo. Hanno risposto tantissimi, sì, esatto, infatti. Forse siamo stati troppo buoni. Debora, non sei stata sufficientemente cattiva. No, oggi no, dai, riprendiamo in questo. Già abbiamo avuto dei mesi tanto duri, Mauro. Cioè, cerchiamo di ripartire un po' morbidi. Allora, fra tutte le cose da dire sull'attività dell'arbitro, siamo rimasti indietro in qualche passaggio fondamentale che vale la pena trasmettere ai nostri ascoltatori. Dottoressa Cartechini? Forse è stato ricordato il sito dell'arbitro. Un altro documento che sicuramente può essere utile per una panoramica approfondita sulle decisioni dei collegi con un linguaggio non tecnico e non giuridico è la relazione annuale sull'attività dell'arbitro, in cui oltre a statistiche molto ricche sul sistema sono contenuti i principali filoni di contenzioso con un link automatico alle decisioni nel caso di un interesse specifico sulle singole pronunce dei collegi. Quindi questo può essere sicuramente un consiglio utile per gli ascoltatori. Molto bene. Grazie alla dottoressa Margherita Cartechini del Dipartimento Tutela dei Clienti ed Educazione Finanziaria di Banca d'Italia. Grazie alla collega Valentina Maglione del Sole 24 Ore. Due di Denari torna naturalmente domani. Vado a fare lo speed, così domani sono pronta. Esatto, domani parliamo dello speed.